222. Saltimbocca alla romana. Le ho mangiate a Roma, alla trattoria Le Venete, e perciò posso descriverveli con esattezza. Sono bracioline di vitella di latte, condite leggermente con sale e pepe, sopra ognuna delle quali si pone mezza foglia di salvia, una intera sarebbe di troppo, e sulla salvia una fettina di prosciutto grasso e magro. Per tenere unite insieme queste tre cose, si infilzano con uno stecchino da denti, si cuociono col burro alla sauté, ma vanno lasciate poco sul fuoco dalla parte del prosciutto perché questo non indurisca. Come vedete, è un piatto semplice e sano. Con 300 grammi di magro ne otterrete 11 o 12 e potranno bastare per 3 o 4 persone. Le bracioline tenetele alla grossezza di mezzo dito e prima di prepararle bagnatele e spianatele. Potete servirle con un contorno qualunque.